30. Quando suo padre la sciolse dall'abbraccio, Esther si sentì gelare. Ancora una volta quell'uomo la lasciava indietro, come a Oswego. Lo guardò abbracciare sia Nancy e stringere la mano a zio Daniel, che restava a Londra, in attesa della nomina. Sarebbe rimasta con loro fino al momento di tornare in America, a guerra finita. Il padre si accingeva a ripartire e lei non provava niente. Un tempo quell'uomo grasso e nervoso le aveva suscitato reverenza e affetto. Osservò ancora suo padre congedarsi da Peter. Il ragazzo indossava l'uniforme rossa, era diventato un soldato del re. Sarebbe partito anche lui per l'America, ma più tardi, con l'esercito, per combattere i ribelli. Suo cugino ricevette l'abbraccio di Joseph Brent, che gli parlò nella loro lingua, la faccia seria, ma un tono intimo, paterno. I servitori finirono di caricare i bagagli sulla diligenza. Qualcuno disse che era ora di andare, le navi li attendevano a Falmouth. Anche se era giugno, faceva freddo a quell'ora del mattino. Il sole non era ancora spuntato sui tetti e una bruma lieve ammantava la metà inferiore del mondo. Esther si strinse nella pelliccia e sentì un formicolio alla base della nuca, che la costrinse a voltarsi. Philippe Lacroix era lì. La ragazzina toccò d'istinto il bracciale che le aveva donato nella legnaia. Lo portava sotto la manica del vestito. Col pensiero gli chiese di portarla via, di nuovo, di non lasciarla in quella città scura e nebbiosa. Lo chiese all'angelo custode, non al diavolo. Si avvicinò. «Non ci rivedremo mai più, vero?» Philip guardò lontano, oltre la diligenza, oltre la strada e il porto. Esther attese che frugasse il futuro. Sperò che potesse smentirla. «Se accadrà ne sarò felice», rispose prima di montare a cassetta, di fianco al vetturino. Esther sentì i piedi come catene, le gambe di pietra. Pianse. La diligenza si mosse. Suo padre salutò ancora dal finestrino, ma lei non lo vide.